Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, è arrivato il nostro momento. In regia abbiamo Giorgio Mattei, in redazione Laura Vanossi. Andiamo a sentire i temi del giorno per vedere se qualcuno di questi è di particolare vostro interesse. Cuore, impara a prenderti cura di lui. Dalla medicina tradizionale cinese, un massaggio per i nostri bambini. Pelle grassa, crema da notte sì o no? Tra pochi giorni, domenica prossima, 28 settembre, si celebrerà in tutto il mondo la giornata per il cuore, ideata da World Heart Federation, promossa in Italia con la collaborazione di Federazione Italiana di Cardiologia, Conacuore, ministeri, istituzioni e società scientifiche. Noi ci portiamo avanti, ne parliamo oggi, quest'anno il messaggio è Conosci il tuo rischio, che suona proprio come un invito, una raccomandazione a prenderci cura in modo responsabile della nostra salute. Oggi noi sappiamo tante cose, no? Conosciamo i nemici del nostro cuore, li conosciamo quasi a memoria: la pressione alta, il sovrappeso, i livelli di colesterolo elevato, il fumo, la sedentarietà, la familiarità, solo per citarne alcuni. Abbiamo a disposizione anche tanti mezzi diagnostici capaci di individuare difetti e problemi del nostro cuore. Nel caso ci sono, per fortuna, fior fiori di terapie. La ricerca è in attività costante, produce sempre ottimi risultati e anche la chirurgia ha fatto passi da giganti. I cuori difettosi si riparano o nel caso si rimpiazzano in toto. Eppure le malattie cardiovascolari sono ancora la prima causa di morte nei paesi occidentali. Perché? Domanda da mille punti che io giro subito ai miei ospiti, che vi presento e chiedo subito di rispondere. Il professor Magrini, direttore della medicina cardiovascolare dell'Università di Milano, ospedale policlinico. Professore, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo in linea con noi anche la dottoressa Pantaleo, specialista in cardiologia ambulatoriale agli istituti clinici di perfezionamento di Milano e segretaria dell'ANCE della Lombardia. L'ANCE è l'Associazione Nazionale Cardiologi Extraospedalieri, insomma il cardiologo del territorio. Dottoressa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Professor Magrini, allora si muore ancora di cuore? Beh sì, è vero. È vero, se lei mi chiede perché, questa è una domanda difficile, io, o meglio i medici, possono un pochino capire come mai il cuore è un organo bersaglio per molte patologie e il cuore ha anche qualche elemento di fragilità proprio nel suo progetto. Vi faccio un esempio. Sì. Il cuore è fatto di celluline muscolari che funzionano allungandosi, accorciandosi e pompando sangue. Queste cellule, se vengono danneggiate e muoiono, non vengono sostituite da altre. Il termine tecnico è che il cuore è fatto di cellule a crescita determinata, cioè noi a 6 mesi d'età, subito dopo la nascita, perdiamo la capacità di replicare i miociti o cardiomiociti. Questo è un grosso elemento di fragilità del cuore. Un altro che fa parte del progetto è che questi muscoli così fragili hanno bisogno di tanto ossigeno e le coronarie forniscono l'ossigeno a questi muscoli, sono dei tubicini piccoli che facilmente si ostruiscono, vengono strizzati quando il cuore si contrae, se la parete diventa grossa vengono ulteriormente ostacolati nella loro funzione. In altre parole, io chiedo spesso agli studenti: fatemi un progetto di cuore che non si rompa mai, o fatemi un disegno delle coronarie che funzionino sempre. Io magari sfido il fulmine di Zeus chiedendo queste cose. Finora, francamente, nessuno è riuscito a fare un progetto che funzioni bene come quello che la natura ha creato. Allora, ci sono elementi di fragilità nel cuore, il cuore interagisce fortemente con l'ambiente e questi due elementi forse spiegano perché alla fine è, come dire, il pezzo, tra virgolette, del nostro organismo che cede e chiude. Quello più importante e più fragile. Sì. Io tornerei al messaggio della giornata, quell'aggettivo tuo che dice molte cose, sottolinea un aspetto importante, che ognuno deve difendersi dai nemici del proprio cuore, non dai nemici del cuore in generale. Sicuramente bisogna che ne tenga conto, ma lo sforzo che deve fare è mirato, perché non si può passare tutta la vita a difendersi, no? Bisogna anche vivere. Dottoressa Pantaleo, lei che dice? Sì, dico, confermo un po' ciò che ha detto precedentemente il professor Magrini, e quindi bisogna cercare di conservare la buona salute del nostro cuore con la prevenzione e innanzitutto conoscere se stessi. Come lei diceva, conosci il tuo rischio, significa che bisogna conoscere la nostra storia, quindi a cominciare dai nostri genitori, perché se i nostri genitori o i fratelli o sorelle hanno avuto un evento in età non anziana, come un ictus o un infarto, vuol dire che i nostri geni non sono magari dei migliori, e quindi cercare di correre ai ripari controllando quelli che sono i nostri fattori di rischio che lei ha citato anche all'inizio, e cercando di intervenire e di conservare la nostra salute. Quindi, parola d'ordine di oggi: personalizzare. Noi partiremo dalle indicazioni generali condivise dalle società scientifiche, e caso per caso daremo indicazioni mirate per passare dalla teoria alla pratica, dal generale al particolare. 800 24 0024, questo è il nostro numero verde, potete chiamare, chiedere a cuor leggero un dubbio, una domanda, qualcosa che vi preoccupa del vostro cuore, di un fattore che di rischio per il vostro cuore. Io vorrei partire dal cavallo di battaglia dei cardiologi, professor Magrini, che è poco cibo e movimento. È una raccomandazione unisex che vale per tutti? Dunque, il movimento trova tutti d'accordo. Il movimento fatto come abitudine fin da ragazzini, possibilmente un movimento che abbia anche un contenuto di piacere, quasi di gioco, preso come, dicevo, abitudine, e anche da grandi l'idea è di fare almeno una mezz'oretta ogni giorno. Cioè, questo è considerato un grosso fattore di protezione cardiovascolare. E i meccanismi con cui funzionano non sono ancora chiarissimi, ma... Però... Ecco, noi direi, sappiamo che su questo siamo tutti d'accordo. Poco cibo, dottoressa Pantaleo, quanto poco cibo? Allora, intanto io invito diciamo tutti quanti, ma soprattutto le donne, a misurare la propria circonferenza vita, che è appunto indice di questa obesità di tipo viscerale, perché il tessuto adiposo all'interno del nostro addome. La facciamo misurare però anche agli uomini, vero professor Magrini? È giustissimo, come dire, misurarsi i diametri, eccetera, o le circonferenze. Penso che sia un pochino più complicato attribuire un'esagerata quantità di effetti negativi all'alimentazione. Allora, questo è un terreno su cui i cardiologi magari non sono completamente d'accordo. C'è un ruolo importante dell'alimentazione, ma se fosse tutto lì sarebbe troppo bello. Troppo semplice, sarebbe invece troppo noi semplice. Amiamo le cose difficili. Io invece vorrei sottolineare a voi, parlare con i miei esperti e con i miei ascoltatori, tornando all'attività fisica, c'è uno studio, si chiama Beautiful, che suggerisce un motivo in più per muoversi. L'esercizio fisico infatti riuscirebbe a tenere sotto controllo un fattore di rischio di cui si parla poco, ma che sembra essere indicativo, ed è la frequenza cardiaca. Viene già tenuta molto in considerazione per chi soffre già di cuore, ma potrebbe essere indicativa anche per chi di cuore non soffre, per mantenere, no, il rischio basso. Allora, parleremo della frequenza tra poco. Dottoressa Pantaleo, come si misura il polso? Perché noi così chiediamo ai nostri ascoltatori a casa di misurarsi il polso, di dirci che frequenza hanno, e poi i nostri esperti vi diranno perché è importante, come deve essere la frequenza salvacuore. Sì, allora si prende il polso radiale, ad esempio sinistro, con la mano destra, appoggiando. Sì. Il polso radiale vuol dire il polso dove noi mettiamo l'orologio, no? Ecco, dove si è un pochino, perché se mi dice radiale già noi ci spiegando, grazie. Cioè dove scorre l'arteria radiale, il lato radiale è quello in linea col pollice. Perfetto. Quindi sotto il pollice, benissimo, sinistro, si prende con il pollice della mano destra, si spinge dove c'è appunto l'impulso dell'arteria e si contano gli impulsi che si apprezzano nell'arco di un minuto. Ok, allora un minuto di tempo per sentire il vostro polso e per chiamarci subito all'800 24 0024 o per scriverci. Però avete farsi le mani occupate. 349-238-6666. Il professor Magrini e la dottoressa Pantaleo sono a nostra disposizione sino alle ore 12. E adesso voltiamo pagina per parlare di un massaggio che arriva dalla Cina. Si chiama Tuina ed è un metodo di trattamento che ha una tradizione altrettanto antica dell'agopuntura. È particolarmente indicato per risolvere disturbi e malattie comuni nel bambino. Cerchiamo di capirne di più insieme alla nostra ospite, la dottoressa Elisa Rossi, che è medico, agopuntore, responsabile scientifico della Federazione Italiana Scuola Tuina e membro della Commissione Medicina non convenzionale. Dottoressa Rossi, buongiorno e grazie. Buongiorno a lei, grazie. Dottoressa, chi pensa alla medicina tradizionale cinese pensa agli aghi, invece ci sono anche i massaggi. Sì, appunto il Tuina è una tecnica manuale, la definirei, perché ci sono massaggi, ci sono mobilizzazioni, pressioni e viene usata normalmente negli ospedali cinesi. Sì. Come lei diceva, ha gli stessi principi dell'agopuntura e fa parte appunto della formazione di un medico tradizionale cinese. E poi c'è una variante pediatrica che è tecnicamente più semplice. Questo perché anche i bambini sono più semplici, non so, direi che hanno avuto meno tempo per rovinarsi e quindi guariscono più facilmente, sono più reattivi, hanno un'energia un po' come quella della primavera, no? Sono all'inizio della vita, è molto vivace la loro energia e quindi si possono usare queste piccole stimolazioni che sono come degli sfregamenti su delle linee. Sì. Oppure delle pressioni, impastamenti di alcuni punti. Ogni mamma massaggia distinto il proprio bambino. Mi viene in mente quando i bambini hanno le colichine del lattante, viene automatico, istintivo massaggiargli il pancino con movimenti circolari, no? Sì. Però io lo so, dottoressa, che non si possono descrivere massaggi per radio, però per fortuna ci sono dei corsi che si stanno organizzando di cui parleremo. Ci regala un po' di saggezza del Tuina per così farci capire in quali punti, ad esempio, si andrebbe meglio fare una pressione, un massaggino per vedere, no? Anche se non abbiamo tante competenze, se funziona. Ad esempio, queste mal di pancia del bambino, che spesso piccolo stenta ad addormentarsi perché noi le chiamiamo le coliche. Sì. Del lattante, non so se facciamo bene o male, ma comunque ci siamo intesi. Sì. Ma in questo caso, guardi, intanto è chiaro, poi ogni bambino è un individuo a sé, quindi la sequenza, l'insieme dei massaggi varia da bambino a bambino, però in linea di massima, massaggiare la pancia come si fa naturalmente va benissimo. Una cosa che potrebbe essere semplice da descrivere è sotto l'arcata costale, sotto le coste, un movimento, come dire, in apertura, no? Per cui con i due pollici dal centro verso l'esterno sotto le coste. Però invece ce ne sono altri che sono meno immediati e che riguardano proprio la struttura della medicina cinese. Per esempio sul pollice c'è una linea che va, anche questa sfregata, e corrisponde a questa funzione di trasformazione che è carente oppure è un po' bloccata, ostruita nel bambino che ha le colichette. E il Tuina serve anche per bambini che hanno problemi di addormentamento, vero? Anche poi per bambini che spesso nei mesi invernali si ammalano di tosse e raffreddore, malattie da raffreddamento. Sì, in sì, genere. Assolutamente, noi abbiamo fatto 3 anni questo ambulatorio, che è un progetto pilota della Federazione delle Scuole di Tuina e Qigong. Era gratuito e adesso c'è l'altro sui disturbi del sonno, che è anche questo gratuito, ed è un progetto proprio per fare in modo che ci sia una prevenzione, una cura delle patologie respiratorie invernali, quelle per cui si prendono, diciamo, un po' troppi antibiotici, ecco. Allora, dottoressa Rossi, io la ringrazio. Per le mamme e i genitori interessati invito a consultare il sito della Federazione Italiana Scuole Tuina e Qigong, dove ci sono anche la segnalazione di corsi gratuiti che si possono seguire per saperne di più. Quindi massaggiate il vostro bambino, imparando magari a farlo anche con la saggezza della medicina tradizionale cinese. Dottoressa Rossi, grazie, buona giornata. Grazie a lei, arrivederci. Pronto soccorso. E riprendiamo a parlare di cuori, di cuori, sì, perché parliamo di cuore maschile e di cuore al femminile. Affideremo il cuore dei nostri ascoltatori al professor Magrini, mentre il cuore delle nostre ascoltatrici alla dottoressa Pantaleo. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di così, scriverci o telefonarci per dire che frequenza ha il loro polso, quindi quanti battiti. Professor Magrini, perché la frequenza è così importante e qual è la frequenza ideale? Dunque, in una persona adulta a riposo vuol dire in posizione orizzontale, senza avere né caldo né freddo, senza interagire emotivamente con l'ambiente, senza aver mangiato, bevuto, eccetera, insomma, in quelle che noi consideriamo le condizioni di controllo, un adulto può battere, il cuore di un adulto può battere da 60 a 80 volte al minuto, quindi questo valore di frequenza cardiaca è considerato normale. Al di sotto di 60 battiti al minuto si parla di bradicardia, questo è il termine tecnico che usano i medici, al di sopra degli 80 tachicardia, cioè il cuore batte più in fretta. Sia la bradicardia che la tachicardia devono essere in condizione di riposo, devono essere interpretate dal medico nell'eventualità che compaiono. Sì. Va segnalato che l'allenamento, l'esercizio, l'abitudine a fare sport, eccetera, progressivamente fa scendere il numero dei battiti. Perché questo è così vantaggioso e noi cerchiamo in tutti i modi di spingere il normale cittadino a fare sport? Perché battendo a 50, se ce n'è bisogno si può salire fino a 150, usando in modo, come dire, più razionale la riserva di battiti che ha il nostro cuore. Allora, se il cuore batte meno in fretta, consuma meno ossigeno e noi abbiamo una riserva di battiti per le emergenze, scappare, inseguire, sì, fare una salita, eccetera, più alta. L'allenamento fa scendere il numero di battiti. Gli atleti lo sanno tutti, hanno dei cuori che battono anche molto, molto lentamente. Si racconta che il cuore, infatti, di il cuore di, sì, è vero, batteva a 40. Sì. Se posso aggiungere una cosa a questo, la cosa che potrebbero i cittadini imparare è misurare di quanti battiti aumenta la funzione del cuore durante, per esempio, uno sforzo. Allora, in occasione della giornata mondiale per il cuore, noi oramai da anni, assieme all'Associazione per il Policlinico, eccetera, andiamo in cima al Duomo di Milano, sì, e misuriamo la frequenza del battito a chi sale le scale, ovviamente, non a quelli, sì, che salgono in ascensore, con l'idea di incoraggiare l'uso del proprio cuore per fare le salite, eccetera, tant'è che questa iniziativa si chiama Cuore e Salite. Sì. Ed è saltato fuori che negli anni molti, forse la maggioranza, diciamo il 52-53% dei campioni di popolazione che non ha un cuore sufficientemente allenato, perché per salire i 270 gradini dell'uomo usa quasi tutta la sua riserva di battiti e va fino a quello che noi chiamiamo frequenza cardiaca massimale, che è intorno ai 180, insomma dipende un po' dall'età, poi magari possiamo spiegare come, sì, si calcola. E i medici, i cardiologi in particolare, raccomandano a tutti di non andare mai al massimo, di usare il 70% dei propri battiti di riserva. Di stare un po' indietro, insomma, di risparmiare un po'. Per risparmiare un po', l'allenamento è utilissimo. Aiuta. Più di una medicina, probabilmente. Quindi l'invito è: facciamo attività, andiamo a visitare i monumenti in verticale, il Duomo, poi partiranno delle altre iniziative, forse anche la Tour Eiffel, vero? Guardi, io Speriamo. Penso che se si associa l'esercizio a qualche cosa di piacevole, non dico siamo la a cavallo, cultura, tra virgolette, che mi sembra di esagerare, Ma questo fa sì che uno faccia più volentieri lo sforzo, poi dovrà imparare a conoscere la sensazione di fatica e questo... E noi adesso poi con l'aiuto dei nostri esperti vi diremo quanto può aumentare il vostro cuore se fate le scale, quindi se nel frattempo volete così salire una rampetta di scale, chiamarci 824 0024. Intanto ci ha chiamato Stefano da Perugia, buongiorno Stefano. Buongiorno, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Io avevo una domanda che comunque già credo la risposta del professore l'ha pienamente data. Ho 50-51 battiti al minuto a riposo facendo molto sport, è un'attività costante. Però una curiosità, avendo anche un prolasso alla mitrale, ovviamente diagnosticato già da ragazzino, che mi dicono non dovrebbe dar nessun problema, ho guardando più avanti, ho 44 anni, qualche controindicazione nel continuare a fare sport con una certa con un battito d'atleta, Stefano, e no? Poi aggiungo 2-3 caffè al giorno più o meno possono incidere ad alterare questo ritmo di vita abbastanza regolare, costante? Grazie, il caffè, Stefano. Il caffè e il mio prolassino alla mitrale, grazie, complimenti veramente. Grazie, mi è piaciuto il mio prolassino, quasi, no, in modo un po' così affettuoso. Dottoressa Pantaleo, prima di andare a sentire gli aggiornamenti dei mercati finanziari, possiamo parlare a Stefano se il suo prolassino e se un paio di caffè possono in qualche modo pesare sul suo cuore, sulla salute del suo cuore? Ma non rassicuro, perché avendo 50 battiti o 55 battiti a riposo, come diceva il professor Magrini, si parte quindi da una buona base. E 3 caffè al giorno non hanno degli effetti particolari, tranne in soggetti molto sensibili alla caffeina, e il prolasso, se è minimo, ma è solo, cioè, un atteggiamento della valvola mitrale, non c'è un rigurgito importante, io direi che non crea nessun problema. Nessun problema. E intanto abbiamo Nicola da Caserta, fa la domanda che così poi noi riprenderemo magari il tema suggerito da Nicola, andiamo a sentire qual è. Nicola, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo qualche consiglio per quanto riguarda la prevenzione, avendo avuto in famiglia sia mio fratello che mia mamma hanno avuto problemi cardiaci. Mio fratello ha avuto dei bypass e mia mamma la ricostruzione dell'aorta, quindi Nicola, no. Ecco, questo è il tema che lancia Nicola. Siamo tornati insieme, oggi parliamo del nostro cuore, in linea con noi abbiamo il professor Fabio Magrini e la dottoressa Giovanna Pantaleo. Professor Magrini, se in famiglia, come ci chiedeva Nicola da Caserta, ci sono stati dei casi, dei familiari con malattie cardiovascolari, a che tempo deve cominciare la prevenzione, con quali esami, quali fattori di rischio dobbiamo tenere particolarmente sotto controllo e se ci sono eventualmente dei campanelli d'allarme da non sottovalutare? Dunque, mi sentirei di dare subito un consiglio a Nicola. Sì. Non si può vivere avendo dei dubbi sul proprio cuore. Quindi se uno pensa che, avendo avuto i genitori che hanno avuto problemi con cuore, eccetera, se pensa che la probabilità di averli insomma esista anche per lui, deve togliersi dei dubbi, cioè bisogna fidarsi del proprio cuore, sennò la giornata o la vita diventa un po' ansiogena. Primo consiglio quindi è trovare un medico con cui approfondire la cosa, raccontargli se ha dei disturbi, qual è la sua pressione, insomma fare il suo profilo circolatorio, eventualmente fare un esame che è molto globale ma insomma estremamente utile, che si chiama elettrocardiogramma durante sforzo, che permette di valutare la risposta della sua circolazione, non solo del cuore, a un segnale importante che è l'esercizio fisico, l'aumento del consumo d'ossigeno, eccetera. Ovviamente bisogna anche dosare nel sangue gli zuccheri, i grassi, insomma vedere se il suo profilo è, se il suo peso è giusto, se lui ha abitudini sbagliate tipo dormire poco, fumare tanto e fare queste cose un po' che a voi medici non piacciono, insomma. Quindi, io penso che soprattutto dormire faccia bene al cuore. Va da sé che le sigarette sì, non vanno bene. Io penso che ogni persona si chieda: avrò un buon corredo genetico, no? Purtroppo i medici ancora non hanno le idee chiarissime sul peso della genetica e tutte le promesse della genetica io mi auguro vengano mantenute, ma in un futuro non so quanto vicino. Io vorrei fare una domanda a Nicola. Nicola ha messo giù, ma penso che ci stia sentendo per radio. Perché se è importante avere come primo fattore di protezione, avere un medico di cui ci si fida e con lui negoziare e coordinare cose. La seconda cosa importante è sapere delle cose. Allora io vorrei sapere che cosa fa Nicola, ma magari che cosa fanno tanti se sentono un dolore davanti sul petto. Per esempio la radio potrebbe dare qualche istruzione su che cosa fare se si sente un dolore strano, diverso, che se è un dolorino di un secondo non si fa niente, ma queste sensazioni possono far vivere in ansia molte persone, ci sarà il cuore, non sarà il cuore. Bisogna togliersi questi dubbi e magari dare informazioni su quando è ragionevole averli e quando no. Allora, professor Magrini, a questo punto diamole. Lei, se ci sono delle differenze, le distribuiamo tra lei e la dottoressa Pantaleo. Se no, il dolore che ci deve lasciare tranquille, il dolore invece che ci deve spingere a vederci chiaro. Allora, guardi, un dolore che dura pochissimo, secondi o pochissimi secondi o frazioni di secondi, che è lancinante, dice aiuto, mi è venuto infarto, che va via da solo, oppure che si accentua o si modifica schiacciando, facendo dei respiri, muovendo il torace, sì. E in pratica è sensibile alla meccanica del torace, sia schiacciando con le mani che muovendo. Questi dolori che possono creare il panico sono dolori che vengono dalle pareti, quindi non devono creare. Sì. Sull'altro estremo, quando invece uno sente una cosa profonda, sorda, che magari va e viene, che dura minuti o mezz'ore, che si associa a sensazione di nausea, di sudorazione fredda, magari uno si sente improvvisamente stanco, gli viene come una tossettina, può far fatica a respirare, può sentire il cuore che sbattacchia, questo richiede senz'altro di essere interpretato. Come regola generale, io direi, anche se i medici dovessero brontolare nei pronti secondi, è non importa, fare un esame in più. Un esame in più che uno in meno. Certo. Però non si può neppure esagerare. Non si può. Appena il dolorino, zacchete, correre al pronto soccorso. Perché, ma io penso che le indicazioni che professor Magrini lei ci ha dato possono già farci fare una distinzione tra il dolore innocente da quello più preoccupante. Andrei a sentire Carmine che ci chiama da Modena, poi abbiamo Daniela da Varese, poi abbiamo Maurizio da Milano, quindi metto subito al lavoro i miei ospiti. Carmine, buongiorno. Buongiorno a voi. Io da qualche mese ho questo problema qui, al mattino in particolare, la notte il cuore va a 3000, come si dice, e credo di sapere perché non fumo, non bevo, però è un periodo che non è buono e, sì. E credo di avere un certo livello di ansia. Sì. Però vorrei capire se è pericoloso e quanto può essere pericoloso, perché proprio ieri mattina mi sono messo, non dico paura. Sì, perché quando il cuore va a 1000 ci viene paura. Carmine, l'abbiamo provato in tanti, io la capisco, almeno sentiamo la dottoressa Pantaleo che cosa può suggerire. È da un po'. Sì. Dottoressa Pantaleo. Sì, allora innanzitutto bisogna imparare a misurare il polso, cioè sì. Si sente il cuore che batte forte, questa è una sensazione, dovremmo imparare a contare i battiti. Per cui se in una situazione di riposo assoluto il battito supera quei limiti, ma soprattutto cioè supera di molto i limiti già detti prima, quindi cioè supera i 100 ed è aritmico, e allora sono d'accordo che ci si preoccupa di più e ci si rivolge al medico soprattutto per fare un elettrocardiogramma. Se una semplice tachicardia di 80, 90, 100 così, può essere anche, come diceva Carmine, un po' un fatto di ansia. provare quindi, a respirare. Prego. Quindi mano al polso. Mano al polso è importante, imparare a sentire se è regolare e se è troppo alto o troppo basso. Daniela ci chiama da Varese, 824-0024, buongiorno, poi leggerò buongiorno. Qualche sms. Daniela, grazie. Salve, volevo chiedere, l'esercizio, siccome si parlava di esercizio di movimento, l'esercizio fatto in casa con una cicletta costante sì. è sufficiente? Grazie Daniela, penso che il professor Magrini vorrebbe mandarla su al Duomo. Però nel frattempo Daniela si allena con la cyclette, va bene professore? Va bene, a patto che si diverta, perché altrimenti dopo una settimana o un mese si è stufata e dice no basta, non ne posso più di stare chiusa in casa con la cyclette. Allora, associare l'esercizio a qualche cosa di divertente, se lei dice io sento musica mentre pedalo, mi va benissimo, ma la raccomandazione è per farlo a vita l'esercizio e farlo volentieri bisogna divertirsi, deve essere un gioco. Se andare in bicicletta a casa a lei piace, bene. La risposta è sì, lo bene. Faccio. Infatti il professor Magrini ha suggerito già ascolti musica, perché evidentemente professore lei non ama molto la bicicletta, si annoia, perché ha trovato subito un modo per renderla più divertente. Eccoci, è arrivato il momento di Maurizio. Buongiorno Maurizio. Buongiorno, volevo porre il mio quesito. Certo. Io esco una volta alla settimana in bicicletta, ho 38 anni e la media battiti si aggira fra i 160 e i 165 per 3 ore. Volevo sapere se era esagerato o se andava bene. Grazie Maurizio. Professor Magrini, 160-165 per 3 ore. Un pochino sopra le righe, sarebbe meglio 140-150, perché facendo rapidissimamente i conti lei sta andando sopra il 75% della frequenza massimale prevista per i 38 anni. Quindi io cercherei di stare una decina di battiti al di sotto di 160 e poi mi piacerebbe sapere qual è la sua frequenza prima di cominciare a correre, cioè in condizioni di riposo. Maurizio. Allora, a riposo diciamo è sui 50 battiti. Perfetto. È un massimale che è arrivato anche a 185. Ecco, e quello che io vorrei dirle a lei, a tutti, di non andare al massimo, di stare all'80-70% del massimo. I numeri vuol dire a 38 anni andare a 140-150, non di più, soprattutto se uno lo fa per periodi lunghi. E la seconda raccomandazione è imparare a sentire la sensazione di fatica. Allora, questo richiederebbe qualche spiegazione un po' più dettagliata, però è importante che l'individuo riceva questo segnale che viene dal suo corpo, eh? Sì. La sensazione di fatica va interpretata, uno deve rallentare, fermarsi, eccetera. Poi dopo magari con l'allenamento si sente sempre meno, eccetera, ma non vorrei che tutti si mettessero subito a fare sforzi esagerati con frequenze massimali, motivando la sofferenza, superando la sensazione di fatica. No, la cosa sensata è segnalare la fatica, il cervello ci segnala la fatica, leggerla, rallentare, insomma fare una cosa di buon senso. Fare una cosa di buon senso. E possiamo anche fare una cosa buona. C'è una bella notizia per i golosi. Un recente studio tutto italiano realizzato dall'Università Cattolica di Campobasso ha dimostrato gli effetti protettivi sul cuore del cioccolato. In linea con noi abbiamo Giovanni De Gaetano, direttore dei laboratori di ricerca dell'Università Cattolica di Campobasso. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi. Abbiamo dato tante raccomandazioni, adesso anche una buona notizia, no? Un po' di cioccolato fa bene al cuore. Ho detto sì. Un po', vero professore? Perché un po'. Dai nostri studi sulla popolazione molisana abbiamo ricavato che una mezza tavoletta di cioccolata alla settimana, quindi un quadratino al giorno più o meno, sottolineando che non si tratta di un farmaco che va preso a milligrammi come una compressa, si riduce in maniera significativa una serie di parametri che riflettono lo stato infiammatorio che predispone alle malattie cardiovascolari, sia cardiache che cerebrali. Il merito di questa proprietà del cioccolato è nascosta negli antiossidanti, vero? Sì, noi riteniamo che siano soprattutto queste sostanze che chiamiamo polifenoli, che hanno anche attività antiossidante, ma hanno altre caratteristiche che nell'insieme favoriscono un miglior funzionamento del sistema vascolare, quindi della parete vascolare, del sangue che vi circola, che rallenta l'insorgenza di malattie cardiovascolari. Tutti i tipi di cioccolato, in particolare solo quello nero, quello fondente? Noi abbiamo studiato in particolare quello fondente, ma anche la letteratura scientifica dice che è proprio il cioccolato nero, dove ci sono soltanto questi polifenoli, che sia efficace. Il cioccolato bianco perde in gran parte queste caratteristiche perché le proteine del latte legano e fanno precipitare i polifenoli. Professore, io la ringrazio, quindi mangeremo a cuor leggero, senza esagerare, un quadrettino di cioccolato al giorno. La moderazione è la regola principale. Grazie, ma questo mi piace, sapere che possiamo mangiare, che abbiamo una buona ragione in più per mangiare cioccolato, mi rallegra il cuore. Grazie professore. Abbiamo in linea con noi Maria da Genova. Buongiorno Maria. Buongiorno. Maria, vede che possiamo mangiare un quadrettino di cioccolato, questa è una buona cosa. Magari, piace tanto. Senta Maria, rapidamente la notizia, perché devo stare nei tempi. Sì, dunque io volevo sapere, io ho un dolore forte che mi prende qui al torace quando faccio uno sforzo, anche se mi invitano a fare un ballo, per dire, no? Mi viene immediatamente questo dolore tremendo. E ho fatto la coronarografia, come si chiama, ho fatto anche l'ecocardiografia, e dice che ho un... emozionale, vede, mi emoziono già. Ma no, si lieve dilatazione atriale sinistra, lieve insufficienza mitralica. Il polso ce l'ho a 61-62. Misurato, perfetto. Maria, allora andiamo subito per lei dalla dottoressa Pantaleo, a cui chiedo di essere un po' concisa ma efficace, incisiva. Sì, allora volevo sapere l'età, quanti anni ha? Maria, non c'è. Maria, c'è più? Maria c'è? Maria, l'età. Sono qua, 75. Sì. 75, grazie 75. Maria. Sì. Sì, ecco, volevo dire due cose a proposito del fatto che la donna spesso sottovaluta i propri sintomi e questo sottodiagnosi, vengono sottodiagnosticate le cardiopatie di tipo ischemico. Quindi è corretto che lei abbia fatto questi accertamenti. La dilatazione arteriale sinistra significa in genere che c'è un'aumentata pressione all'interno del cuore, forse un'ipertesa, la pressione alta, e quindi di curare essenzialmente quelli che sono la pressione e gli altri fattori, come abbiamo detto in precedenza, e bisogna escludere con certezza che in questo caso non ci sia una vera ischemia del cuore, quindi con testa sforzo, e quindi ha fatto anche fare la coronaro, ma non ha detto non ha rilevato nulla. Però Maria va a ballare, abbiamo detto mangiate il cioccolato, anche il ballo, una battuta proprio rapida del professor Magrini, anche ballare fa bene, vero professore? Perché è divertente, ci fa fare attività fisica. Assolutamente. Nascono storie d'amore e anche quelle aiutano. Sì, perché questo mi permette di dire che gli stress emotivi, che sono considerati come dire qualche cosa di negativo, se hanno un contenuto di piacere possono far aumentare il battito del cuore, la pressione eccetera, ma per lo più dilatano le coronarie se hanno un contenuto di piacere, e dilatano e fanno aumentare anche il flusso. Questo ecco, visto lasciamoci così, con questo messaggio di piacevolezza, godiamoci anche un po' la vita. Professor Magrini, grazie. Dottoressa Pantaleo, grazie anche a lei. Vi segnalo il sito della Fondazione Cuore, dove potete trovare delle indicazioni sulla giornata del 28. Grazie ai miei due ospiti, intanto. Arrivederci, grazie a voi. E adesso chiudiamo in bellezza, ci occupiamo della nostra pelle. Parliamo in particolare di pelle grassa. Come fare a farla invecchiare bene e quindi a contrastare i segni del tempo? In linea con noi abbiamo la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa a Milano. Buongiorno dottoressa e benvenuta. Buongiorno. Sicuramente deve mettere dei prodotti e delle creme adatte al proprio tipo di pelle. L'errore più frequente è quello di donne e ragazze e signore che magari si vedono le prime rughette e iniziano a usare antirughe pur avendo corposi, ricchi, pur avendo la pelle seborroica. Non va assolutamente bene. Occorre trovare prodotti oil free oppure dei sieri o delle emulsioni leggere proprio adatte alla pelle che produce troppo olio. Quindi queste sono le indicazioni, i prodotti specifici. In etichetta dobbiamo trovare oil free oppure dare la preferenza dei fluidi. La pelle magari che già produce troppo olio, se noi applichiamo un esubero di oli su questa pelle, ecco che va in sofferenza, fa indigestione. La pelle che soffre, che cosa fa? Produce un sacco di radicali liberi. Cosa fanno i radicali liberi? Ormai l'abbiamo imparato. Causano un invecchiamento precoce della pelle. Per cui non solo le creme troppo ricche non sono utili in caso di pelle grassa, ma possono essere addirittura dannose. Dottoressa Serri, messaggio ricevuto. Io la ringrazio per essere stata con noi. Le auguro una buona giornata. Grazie mille anche a lei. E buona giornata a voi che avete seguito Essere Benessere. Io vi aspetto domani, come sempre, dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta Carbone.